che lui l'ha fatto veramente bene, bello croccante, di lusso. Io la Giovanni di Tartino che la cingoma, non ce li buttiamo a mangiare. Mamma mia, quando è gommosa la carne, per carità, no, no, quello io temo. Se appena appena non la sento morbida, cedevole, al dente, guai. È più forte di me. Allora tu non puoi mangiare la lingua di bue. No, no, non credo, no, no, se è gomosa no, no. Preferisco mangiare i granelli di maiale, sono belli morbidosi, paf paf. Non di maiale, di vitello, di bue. E non ci puoi mangiare lui. Cosa ti volevo dire? No, la lingua di bue non è gommosa, è praticamente callosa, rimane tipo i bocconi, ce l'hai presente? Oddio, vabbè, meglio callosa che gommosa comunque, se è callosa è un conto, ma se è gommosa guai. Vediamo, c'è Franco che sta tentando di modulare, Franco? Sì, stavo provando una radio, volevo sapere se stavo uscendo. Eia, prima sei mancato di botto nel primo passaggio che hai fatto, come stavi parlando sei così? Beh, lo so, perché non avevo connotato l'altra antenna. Ai ai ai. Tu va, tu hai bratto, io sì. Cappa, Eia, sì sì. Ma no, non è questo, è il 70. Ah, quello che devi dare a me. Sì sì. Sì, la cari, tutto cappa. Cava cava allora. Cava di positivo. E allora, chi c'è qua? E ci siamo io. Poi c'è l'Altalino. Ecco, so come si chiama. Marco Collo. Ciao Marco, buonasera. Buonasera, radio bomba, ma bomba vero mi, segnale inchiodato fondo scala. Bene va. Ebbene, se non arrivi forte tu, lì sei parecchio in alto. Arrivi, come arriva Luca del Monte, dai. Oh, Natalino, e vabbè anche Franco, e Gianni, non mi avete detto come è questa timbrica di questo mic? Ma buona, cos'è, amplificata? Sì, un nuovo arrivo, roba da pochi soldi, un palmare. Però qui c'è il problema che questo baracchino c'ha il limitatore, cioè gli apri la LC della modulazione AM, però c'ha anche il limitatore da toccare, però io non lo voglio toccare. Ah, già va bene così, la radio è abbastanza presente. Che microfono è che vado a vedere? Sì, allora sul 3009 col trimmer aperto spinge che la mala sorte, lo sai che spinge più dell'M95, molto di più, l'M95 in confronto non amplifica, però vabbè su questo baracchino c'è questo collo di bottiglia e vabbè ce lo teniamo, vai Franco riprendi, aspetta che te lo mando già. Eia, così vado a vedere, lo voglio vedere, secondo come me lo ordino anch'io perché sto cercando un microfono da pago, mi piace di più di quelli da tavola. Vabbè ce l'ho io, ce l'ho voi, 50 euro dai, perché sei tu. 100 euro sto vendendo l'altro io, il microfono da tavola. Anche io lo vendo. Due contro uno, fra. Ah, te ne davanti. Io guardo, ve ne uno da vendere, preamplificato, 50, chi lo vuole? Dallo a Giovanni, non lo stava cercando Giovanni. Non lo so se le vuole spendere 50 euro. Che microfono è? Questo è... Allora... Benzi, Bradesi. Benzi. Scala di positivo, DS2039. Faccelo sentire. Te lo faccio sentire. Gamma di gamma, gamma di gamma. Ah, io facciamo uno scappa. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È bello, Ah, io facciamo uno scappa, ti do una colonnina con i cosi, con i fit. Ma cosa me la fatto la colonnina già? Ma costa tre volte di più. Ma non ho mai fatto la colonnina. Dai, adesso c'è un po' di eco, guarda. Ora, 1, 2, 3, 4. Si sta spaccando l'altro parlante qua. Dice è quello che c'avevo io, ma adesso però vuole riprendere. Adesso è amico! Adesso non ho mai trattato la pena, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Allora fra. Cavo va dentro tutto l'ecco, che si vede brutto e basta, e non si comprende nulla, invece abbassi l'ecco, lo togli del tutto va bene. Adesso è Sant'Ecco, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un bel forte, quello va bene per la macchina, va bene. Ma cosa l'hanno detto nella parecchia della macchina? Quello va bene per la macchina, così ti sento da tutte le parti. Quello è quello che c'avevo io. Tappa di positivo, qua ho cambiato lo slider, capito? Perché c'era lo slider spaccato dentro. Da invece era una caduta in terra, ha spaccato il carboncino interno. Vabbè. Cava, e tu mi vuoi vendere a me? Piace a lui. Vabbè, 50 euro la riparazione, no? Il tempo che ci ho perso, meno di così ci ho perso meno di tempo, eh. La riparazione, 5 minuti a ripararlo, mi su cosa. 5 minuti, devi stare attento, piano piano, la saldatura, no, riuscino. Quello già è vero, bisogna saperlo fare, là. E scappa, io mi sono messo veramente piano piano, capito? Ho disaldato prima quello che c'era e poi ci hanno rimesso un altro. Tutto lì, vai a Parì. Però l'idea che te l'ha data, eh? Che te l'ha data l'idea? Vabbè, l'idea me l'ha data tu, quello... Ok, vabbè, mi ha rovinato l'altro microfono, però. Ma se quando lo trovi lo vedi, il rumore in chi vi è fatto? Vabbè, tanto era un microfono vero. Ma mi piace proprio di tanto, dai, diciamo. Ma infatti non vale nulla, l'altro. Natale! Oi! Cosa stai facendo di bello? Cosa fai? Di bello nulla. Cazzo, non posso mangiare, non posso guardare. Meglio la morte. Sono agli arresti domiciliari, di più ne vuoi. Spiegami una cosa, come mai non puoi mangiare? Abbassa appena fra. Guarda un po', 1, 2, 3, 4. Ho detto come mai non puoi mangiare, Natali? Domanda a Gianni, che a me mi scappa la risa. Cos'è Gianni, che è successo? Quando c'è diabete non è che puoi mangiare tutto. Non so, vabbè, purtroppo, che ci vuoi fare? Devi mangiare regolare, capito, da dieta, non devi toccare dolci, perché dolci... è un casino. Così domani ando a rovarmi un bel cappuccino, mi pongo lo zucchero e mi mangio una di questi graffi, cazzo, pieni di zucchero proprio. E quei corminetti, i cornetti non la ricotta. Fai così perché sei cuocuomo e ti credo, hai bisogno di zuccheri. Sono Cappugioni, io ti telefono stanotte alle 2. Buonasera a tutti. Mi ascolti a me. Ma quel facendo di tutto, ti ascolto, ma una telecamera, devo per aprire mia. Ecco, qua mi hanno intervista pure mi, quel Luca Pugioni. Adesso stanotte lo telefono alle 2 e non lo faccio dormire, lo faccio schiattare. Giuventino. Intervista sì, adesso lo dico a tutti. Beh, avanti che chiama Italia, avanti che sta chiamando l'Italia. Ciao Luca Biscretto. Attention my friend, attention my friend, ascolti Italia, Nord Sardegna. Non si una ragaino. Avanti chi chiama Italia, ti ascolto, avanti. Qual è la tua city? Qual è la tua city? Angola. Cosa ha detto la Italia? Hai capito? Non intendo io, cosa cazzo? Praticamente ha detto a prendetela nel QSO. Ma cosa dice? Dai, l'avevo sentito in spagnolo, no, Natali. E non dici altro. Cazzo, 9.60 mi si è arrivato. Chi? Avanti chi chiama Italia, qual è la tua città, tua city? Ha detto Miami, Florida. Attention my friend, attention my friend, il Coppa Italia, becco becco, si chiude ex. controllo Radio Santiago, grazie. Ci abbiamo parlato assieme. Va bene, vi saluto, statemi bene, tutti quanti, vado a portare il cane che è già tardi. Ciao Luca, ciao a tutti amici, Natalino, Marco, Franco e tutti i canti, le ascolture, dai. Ci sentiamo, ciao. Ciao già, buona passeggiata col cagnaccio, ci sentiamo alle Bruce. Ciao Gianni, per la cronaca questo è sul 3009, 3009. Scappa, va bene. Sì, ti ho mandato la foto e il link pure. Va bene, riprende. C'è un innesco però, come mai? Vabbè, Luca, riprendi, ciao. Non è abbinato, Marco. Marco, con cosa l'hai abbinato? Se c'è un bel forte. Ed è troppo alta anche. Mandalo anche a me, Marco. Chiamate questo povero Cristo dalla Florida. Franco, prova tu che sei in alto, che c'è la radio sparata. A me non mi copia. Attento Florida, copi qua, nord Sardegna. Miami, se ascolti la città di Sassari, nord Sardegna, Italia. È sparita la propagazione. Dai, ci sentiamo ragazzi, fatevi bene. Ciao, ciao. Marco, vado a vederlo con il microfono, se me l'hai mandato. Ma gli attacchi per il 2009, ciao. Come li vuoi tu, te lo danno a 4 poli, a 5 poli, a 6 poli, forse anche 8 poli. Ecco, così a metà, guarda, così sono 4 dita dal mic e così sono 30 cm dal mic. È un po' nasale perché sono ancora intasato, capito già. Mandalo anche a me a vedere, Marco. Adesso me lo mando. È 9. E abbiamo fatto in due già, ripeti. No, era una cazzata che ho detto a Marco, te l'ho detto, mandala anche a me, ho detto, a Marco gli ho detto, mandami direttamente il microfono che me lo attacco al 3009. Sì, comunque sì, paragonato all'M93-95 spinge di più, in confronto all'M95 non spinge niente rispetto a questo, vabbè, meglio così. Ma mandato Miraggi o no? Ma che microfono è, o Marco? Un, non so come si pronunci, KPO, KPO, lo usano in Nord Europa, è 532, KPO 532. Adesso vado su internet e vedo un po'. Ah, Natalino, vedo il tuo contatto, dove cavolo sei? Ah, eccolo qua. Cazzo bello. Luca, riprendi? Ci sei ancora? Sì, sono qua. Mi fa vedere, ma non ha chiamato il microfono. NPO? Aspetta, ti mando il link. Natalino, mandamelo in WhatsApp a vedere com'è. È bello. Aspetta un attimo. NM532, 6 pin. È bello, E non costano neanche molto. Quanto costa? Una sessantina. 35 euro. Da 35 a 39 euro. Vabbè, il prezzo è buono, dai. Secondo me me lo ordino, dai. Claudio ha detto che lo sente bene, come timbrica non è male, per essere un mic da palmo. Poi vabbè, mi hanno fatto ascoltare, però sai cos'è, col telefonino, cioè già registrando il telefonino non è alta fedeltà, poi quando lo ascolti con quella cassa microscopica, no, dall'altro parlante del telefonino non rende, bisognerebbe ascoltarlo al computer, così mi rendo conto più di come esco. Un bel forte, bella, te l'ho mandato Fra, c'è anche il link. Ma anche a me, può comare. Te l'ho mandato. Ah, Natalino sta dicendo. Puttaci a punto telefono, non è che cazzo di puttana. La cosa cazzo mi gioco, non sono quello per telefono adesso. Facciamo in mano. Porca miseria, c'è ancora la moto in strada. La devo mettere in garage. Nasce una gana, è già buio, vaffa Napoli. E che mi volevo coricare, accendere la TV, mettere in pantofole. Anche a Luca l'ho mandato. A me mi viene bene perché c'ho WhatsApp nel computer, mi capito? Ah, ecco, tu quindi completo, però Natalia, io che ho WhatsApp sul computer, dice che può essere molto controproducente, può essere spiato in modo ancora più coso, clonato, un sacco di casini. e io non l'ho messo per quello anche. Non è vero, perché addirittura è criptato. No, no, no, garantisco io, è spiabile. Carino, sì. Ma tu hai fatto qualche modifica al baracchino, no? Allora, beh, questo 3009 ha il trimmer della modulazione aperto, ovviamente. Se no farà con le bottiglie a lui. Sì, va bene. Ah, tu devi dire a loro come fatti il pin? Sì, tu chiedi, specifichi nell'ordine se lo vuoi, a 4 pin, a 5 o a 6, addirittura se tu lo vuoi Midland te lo cablano loro, se tu lo vuoi per i Superstar te lo cablano loro, o qualsiasi altro baracchino tu voglia, ti fanno anche collegamenti, lo sai. Mi hanno mandato anche un cavetto che avevo ordinato, e tu praticamente gli dici come lo vuoi l'adattatore e te lo fanno loro. Siccome uso Gomandroni, non usare il saldatore, me lo sono fatto fare da 4 poli a 6 poli per usare questi microfoni, l'MB più 5, l'M93 e questo qui sui President, capito? Ma come si fa l'acquisto? Mette nel carrello, il pagamento, come si fa il pagamento? Come vuoi, carta di credito, PayPal, ricarica postpay, bonifico bancario, come vuoi tu. Ma ti devi registrare? Come lui? Ho detto, ti devi registrare. Sì, io mi sono registrato, non sai perché, c'è anche su eBay, però su eBay ti costa anziché 35 e 39 a 4 poli. Capito, purtroppo su eBay costa di più perché anche loro hanno le spese. Ega se la fuoti, ma 4 euro a bagno. Sì, ma infatti l'importante è che tu gli specifichi con un messaggio al venditore che lo vuoi 4 poli per Superstar. Via. Se non mi ricordo io non ho problema, mi so può fare. Via. Sì, ma siccome qua lo davano già, cioè era compreso nel prezzo, come lo vuoi te lo cablano, ma penso che l'abbiamo lasciato originale, non l'hanno nemmeno aperto. E la confezione sembrava sigillata, con oh boh, dai, riprendi Franco, io devo staccare, devo mettere la moto dentro e tante altre cose, poi devo uscire. Riprendi Franco. Oh cazzo, cioè per cosa? 31, 32 più 12, questi sono 40, 43 euro. Poi c'è da 44 più 20, 60 più 60 euro, 49, 39, 20 più 7, 8 euro di spesa, quindi 40 euro costa sui bini. Ma infatti la spedizione devi contare, Luca, la spedizione. Io vabbè, ho preso anche altra roba, quindi ho risparmiato sulla spedizione. Ok, riprendi Franco, se c'è ancora, è bianco per me. Ok, dai, riprendo io e vi saluto. Ciao Marco, ciao Natalino, ciao Luca e ciao gli eventuali ascoltatori. Per me è QRT, dai, me ne vado a vedere un po' di TV. E anche io vi saluto, ciao a tutti, grazie per le 4 chiacchiere e me ne passo in QRT anch'io, dai. Ciao a tutti anche agli eventuali ascoltoni. Gava gava. Ciao. Gappa. Buonanotte, ciao a tutti. Ci sentiamo. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte.